Enzo Di Gioia, 44 anni, arrivavo dal commercio fondamentalmente, nel senso che io prima abitavo a Milano, mi sono trasferito qua perché la mia compagna di qua, l'amore è qua, quindi ho fatto la scelta di venire qui. Ho fatto un po' un periodo in mezzo, nel senso che ho tenuto una parte di tempo ancora con l'attività di famiglia che gestivo, in poche parole, e poi poco per volta ho dovuto, diciamo, fare il passaggio. Il passaggio è stato che comunque la prima cosa che mi era venuta in mente è stata la vendemmia, perché se non vieni qua a vendemmiare e da lì è cominciato fondamentalmente, quindi l'azienda per cui avevo vendemmiato poi mi ha tenuto per fare altri lavoretti e poi da lì sono spostato in un'altra azienda agricola, ci ho lavorato un annetto e mezzo, bello intenso, nel senso che comunque ero a tempo pieno e quindi non a chiamata. E poi c'è stata la parentesi del Covid che ha cambiato un po' le carte in tavola. Mi sono ributtato su un altro settore ancora per un annetto e mezzo circa, l'automotive, e poi sono tornato Quindi come ti definisci tu? qua. Giovane nell'agricoltura, non anagraficamente perché insomma non più di primo pelo, però nell'agricoltura sicuramente. Agricoltore, sì, dai, alle prime armi. Significa per te coltivare la terra? Non so dirtelo di preciso, sicuramente è lo stare bene a fine giornata, che non è una roba da poco. Allora, ci saranno delle componenti di stress, ci saranno tante incognite, c'è la fatica ovviamente, quella è fuori discussione, però sono dei ritmi comunque che non sono paragonabili a tanto di quello che comunque c'è adesso in altri settori. Mi ci sono buttato da non tantissimo, ho fatto una vita nel commercio, per cui è chiaro che è tutto nuovo. Quello che è la differenza sicura e sostanziale è che arrivi a fine giornata che la testa non esplode, quindi puoi essere morto e addormentarti appena tocchi il letto, però è un'altra cosa. Quindi tanto basta. È più in armonia con quello che è il ritmo, insomma, la sento più mia, anche se in realtà non l'ho mai stata perché ho fatto tutt'altro per una vita, ma mi fa star bene. Tu che cosa coltivi? Allora, io coltivo uva, Chardonnay nello specifico, ho impiantato l'anno scorso, adesso poco per volta si andrà avanti a coprire tutta la superficie del campo. Poi faccio un'altra attività, diciamo a mezza giornata in un'altra azienda agricola, ci si occupa di orto, per un'azienda anche una bella realtà di Rovereto, che è Mangio Trentino, posto giovane, molto dinamico, bell'ambiente. Lì si fa orto, quindi tutto bio. E vendita diretta, chilometro zero, per cui diciamo che la mia giornata si divide metà con loro e metà con quella che è la mia coltivazione. Qui comunque una piccola parte sarà dedicata anche all'orto, quindi però roba familiare, personale, quindi ancora, diciamo ancora no, perché va ancora fatto tutto, però l'idea è anche quella, quindi di dedicare una parte anche a quello. Vieni da tutt'altra Sì. esperienza, hai iniziato ex novo, da chi hai Sto imparato? imparando. Allora, i passaggi sono stati fondamentalmente quelli che ti ho accennato prima. Ho iniziato con la vendemmia, da operaio comunque guardi e vedi le cose. A livello pratico comunque magari la manualità l'ho acquisita un po' perché le cose le fai, le devi fare tutte. Poi è chiaro che da un punto di vista, se vogliamo chiamarlo teorico, insomma, sto imparando. Se tu sei comunque un socio di una cantina sociale, ecco, ci sono delle cose da fare che comunque vengono, no dettate perché non è proprio come termine, però ci sono delle cose da fare che comunque chiamano da fare, parlo dei trattamenti da fare in un certo momento, eccetera, ci sono delle indicazioni chiaramente. Dall'altra parte, insomma, mio suocero è già nel mondo da un bel po' e mi sta insegnando tanto, quindi una grande mano me la sta dando lui. Chiaro che uno non si inventa agricoltore, devi avere una persona di riferimento. Una componente della mia famiglia comunque si occupa di agricoltura e quindi in qualche modo la vedevo da lontano, però non ci sono mai stato immerso, ecco, è una roba che è arrivata dopo. È sempre stato un mondo, un modo che, allora, non dico che mi abbia intrigato da subito, però lo vedevo sempre con ammirazione, ecco, forse quella è la parola giusta, perché comunque il contatto con la terra e seguire ritmi che sono ritmi della natura e non ritmi del capo ufficio piuttosto che non altre cose, comunque vivere in un certo modo, perché poi è una scelta di vita, ci devi vivere, quindi devi anche guadagnare, questo è chiaro, se no non... Però è una scelta particolare che fai e non è una cosa che improvvisi. C'è chi dice, ad esempio, che si veda così attraverso il filtro, un filtro idilliaco il rapporto con la campagna, un bucolico, una figura del contadino, cosa che non è assolutamente vera, secondo te. Ma no, io sono molto più sul pratico. L'ho fatto poco per volta, un passettino per volta. Mi piaceva, mi piace, mi fa star bene. Tanto mi basta filosofeggiare su queste cose, secondo me. Cioè, l'uomo è molto più semplice. Poi si può anche disquisire e fare filosofia. Ma in realtà... parliamo di robe pratiche, insomma, la roba più immediata è che comunque se uno fa una cosa e gli piace, basta, gli piace. E c'è chi anche dice che si scarica un pochino la responsabilità, una responsabilità etica sul contadino, no? Invece di diventare più consapevoli tutti, ad esempio appunto scegliere la verdura biologica al supermercato. Ma allora, guarda, in un mondo ideale sarebbe bello fare tutto bio, acquistare bio, eccetera. Poi nella pratica stiamo vivendo un periodo, no, di crisi, di più. E quindi bisogna anche capire che i prezzi sono diversi. Per cui uno che va a fare la spesa deve avere un bilancio familiare, ha gli stipendi che comunque sono sempre quelli e non sono cambiati. Io non mi sento di dire nulla su sta cosa. Il bio è una gran cosa. Bisogna comunque capire che non tutte le famiglie, non tutti possono fare spesa bio e trovarsi poi a fine mese con i conti che quagliano. Se ci fosse più benessere e non ci fossero problemi a fare la spesa, potrei capire, allora cerchiamo di indirizzare. Poi diciamo che l'agricoltore magari cerca di fare la sua parte, per cui non è semplice fare bio, comunque comporta determinate cose. È un bel mondo, perché è proprio un bel mondo, è un bel modo di concepire comunque la coltivazione, e quindi anche l'idea di non stressare la terra, di non sfruttare e di non, cioè di fare il giusto, perché vuol dire anche quello, non è solo una questione di qualità, è anche una questione di quantità probabilmente, perché se tu strizzi il terreno come succede nelle coltivazioni intensive, comunque comporta tutta una serie di altre cose che non fanno tanto bene a lungo termine. Sia la terra che anche, adesso si parla di crisi idrica, quindi coltivazioni intensive, acqua, è chiaro che comunque è tutto un discorso legato. Mi racconti una storia di meraviglia? Ma no, la meraviglia è la sensazione di pace che hai quando arrivi. Allora, posto che come in tutti i lavori ci sono dei momenti in cui ovviamente bisognerà correre, ok, quindi quello è fuori discussione. Se parliamo però di routine, comunque di lavoro di tutti i giorni, la pace, un po' perché forse ha a che fare con un'attività che è tua e quindi in qualche modo sei tu responsabile, sei tu che ti gestisci e tutto quanto, però insomma la sensazione di pace che ti... Cioè, guarda, c'è le montagne intorno, hai la terra, insomma, quella è già una gran meraviglia. Buttata nel mondo del lavoro in cui ci troviamo adesso, questo secondo me è un privilegio.